Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Prologo. All you need is love. Le cupe pulsanti note del basso si avvertivano con la pancia ancor prima che con l'udito, mentre l'automobile si avvicinava alla sala prove. Una vibrazione nelle viscere, un lieve tremore dell'ombelico, annunciavano l'approssimarsi a destinazione. Pareva che le onde sonore evocate dai musicisti del gruppo viaggiassero più limpide nel buio della notte, potenziate dall'oscurità che stendeva una patina brillante di stelle sopra quella musica scarna e dura. Acqua di Cane svoltò per la sconnessa stradina di campagna che conduceva alla meta. Dai sedili posteriori arrivavano le voci eccitate delle due Anne che discorrevano dell'imminente serata. Anna la nera, castana ma tinta di nero, non era appariscente, sebbene dotata di una dolce e placida bellezza che aveva calamitato più di un cuore. Anna la rossa era una medusa con riccioli color fuoco che le contornavano il capo, dai quali spuntavano due occhi azzurri e una piccola bocca rossa a forma di cuore, capace di tutto. «Non vedo l'ora, ti rendi conto?» esclamò la nera, simulando un gridolino isterico. «È la prima volta che li sentiamo suonare insieme. Sarà divino!» La rossa la sbirciò da sotto i boccoli cremisi che le calavano sul viso. «Lo spero, quello che gira ultimamente fa abbastanza schifo», rispose neutra. «Ecco, ti odio quando fai così. Scusa, ma perché non dovrebbero essere fantastici? Ci sono tutti. Drago, quel figo. Mirko, che anche lui non scherza mica. E poi Paolino, Billy». Rotiò gli occhi in alto. «Sono i musicisti più tosti che conosciamo. Da mesi provano in gran segreto e questa è la prima volta che ci invitano ad ascoltarli. Cosa vuoi che sia? Io sono gasatissima e tu sei la solita rompicoglioni di merda». Anna la rossa la osservò perplessa. La nera non era mai stata tipa da facili entusiasmi e da punti esclamativi. «Vedremo», sussurrò scettica. Acqua di Cane ascoltava divertito. Mai che quelle due accettassero qualcosa di meno che normale. Doveva per forza essere super, speciale. Altrimenti la classificazione automatica di cagata sarebbe stata immediata ed irrevocabile. Per lui era vero il contrario, tutto era speciale. Gli vestiva il viso un aspetto da mustelide, sguardo indagatore da furetto, naso indiscreto da tapiro. Una mente curiosa e affascinata dalla vita, in particolare quella degli altri. Parcheggiò la macchina davanti alla sala prove e spense il motore. La musica filtrava potente dalle finestre della casa. I vetri vibravano di luce gialla nella notte. I ragazzi del gruppo avevano cercato per mesi un posto per suonare in santa pace. Adattarla alle loro esigenze era stato un atto d'amore. Avevano dipinto di nero tutte le pareti e qualsiasi oggetto all'interno della casa. «In omaggio agli Stones», aveva detto Mirko Riviera, anche se con lui non si capiva mai quando scherzava o era mortalmente serio. Sembravano mura di pece per tutta la cura e il colore nero che avevano messo nel lavoro. Finanche la polvere veniva assorbita e neutralizzata da quel buio vischioso. L'effetto che si provava entrando in casa era come essere in bilico sull'orizzonte degli eventi, pronti a precipitare in un buco nero pieno di catrame. Si intravedeva solo l'ombra di una luce lì dove c'era l'uscita verso un'altra dimensione, ovvero la porta d'accesso allo studio in fondo al corridoio. L'ampio locale riservato alla musica aveva un aspetto oscuro ma accogliente. Era attraversato nel mezzo da una parete isolante con una finestra in spesso vetro che lo divideva a metà in due compartimenti isolati acusticamente. L'ingresso portava alla sala di ascolto, una stanza confortevole con un banco mixer a 24 canali, diversi tipi di altoparlanti per monitorare i suoni, un computer, un mini frigo bar nero. Attaccati alle pareti, fogli e foglietti con schizzi di diagrammi, annotazioni e disegni. Di fronte, dall'altra parte del vetro, Immersa in una tenue luce azzurrina c'era la sala prove, insonorizzata con tappeti, drappi, ambigui materassi poggiati alle pareti. Lì riposavano gli strumenti musicali, la batteria, gli amplificatori per basso e chitarra, un paio di tastiere elettroniche, microfoni e impianto voci, cavi striscianti per terra e cavi penzolanti dal soffitto e, naturalmente, i musicisti. Acqua di Cane entrò nella sala mixer con le due Anne ridacchianti al seguito. Il gruppo stava suonando al di là del vetro, era un pezzo veloce ma leggero. Billy picchiava agile sui tamburi, mentre la chitarra di Paolo saltellava accordi sul basso martellato da Mirko. Drago Ocelot, capelli neri su viso triangolare, le sopracciglia di un taglio malinconico che contrastavano con lo sguardo ironico e carico di astuzia, era appoggiato ad un angolo ad ascoltare gli altri. Quando attraverso il vetro intravide gli amici entrare nella sala mixer, fece un cenno con la mano e Billy subito smise di suonare. Gli altri lo imitarono un attimo dopo. «Oh, carne fresca, finalmente!» esclamò Mirko guardando i nuovi arrivati e sfilandosi dalle spalle la cinta del basso. La camicia bianca di lino, sudata e stropicciata, rovinava appena la sua aria raffinata da biondo dandy. «Ma che ci fanno qui? Chi la chiamate?» domandò Billy inquieto. «Io», rispose Drago, «ho voglia di un po' di pubblico. Sono stufo di cantare solo per voi. Mi annoiate». «Stronzo che sei», sogghignò Paolo. «Annoiamo anche loro, allora». La porta insonorizzata si aprì con uno sbuffo ovattato. Acqua di Cane entrò, seguito dalle voci delle Anne. Ridevano forte, forse di imbarazzo, forse di una battuta. Billy storse il naso. Il suono di ragazzi ridenti lo rendeva nervoso. Gli veniva paura di sbagliare qualche passaggio. «Tranquillo, staranno di là», gli mormorò Drago. Mirko aveva già ghermito in un largo abbraccio le Anne, che squittivano divertite a ogni sua parola. Paolo era concentrato ad accordare la chitarra. Acqua di Cane, simile a un grande roditore che si nascondeva per timidezza o per celia, era rimasto vicino alla porta a osservare la scena. Drago si mise a trafficare con una scatoletta nera posata a terra, accertandosi che i cavi che ne entravano e uscivano fossero ben collegati. Una spia verde era accesa e una rossa pulsava costante. Billy, seduto sul suo trespolo, faceva rullare lievemente le bacchette sulle pelli dei tamburi. Sembrava il suono di un calabrone che volava rasente le pareti. «Mi sto raffreddando qui, cominciamo?» disse, rimarcando la richiesta con un colpo di piatti. «Sì, dai, bene bambine, accomodatevi in sala regia e godetevi lo spettacolo», disse Mirko accompagnando a braccetto le Anne verso la porta e lanciando un'occhiata obliqua a Drago. «Faremo del nostro meglio per soddisfarvi», concluse con una risatina rassicurante rivolto alle ragazze. «A quei Ruggiola, accendi il mixer, siamo pronti? Accendi anche il 13 e quello degli effetti», disse Drago regolando con una manopola la velocità delle pulsazioni della lucetta rossa. «Gli altri sono a posto, non toccare niente». Acqua di Cane annuì e andò a sedersi al mixer dall'altra parte del vetro. Quando lo accese, il viso gli si illuminò di riflessi gialli e verdi. Spinse la levetta che apriva il canale 13. La spia verde lampeggiò. Appoggiò i gomiti sul mixer, accese una sigaretta e si mise in attesa. Le Anne erano sedute in fondo alla stanza, ciascuna in un'accogliente morbida poltrona rotonda e nera. Per alcuni secondi ci fu solo un profondo silenzio, attraversato dai ronzii della chitarra e del basso. Poi Billy iniziò un ritmo incalzante e sincopato. Paolino lo incendiò con un riff indiavolato e il gruppo divenne un treno sonoro lanciato direttamente contro gli ascoltatori. Quando Drago poi urlò rauco e melodioso le prime note, al treno spuntarono le ali e i tre, rimasti dietro il vetro, non poterono fare a meno di sentirsi schiacciati dalla potenza musicale della canzone. Persino la rossa seguiva rapita a occhi spalancati l'esecuzione. La canzone durò poco più di 3 minuti senza concedere un solo istante di respiro. Le Anne non fecero in tempo ad accennare ad un applauso e qualche strillo di approvazione che subito Paulino iniziò a suonare delle veloci note distorte, presto intessute di ritmi da Mirko e Billy. Questa volta la voce di Drago era lamentosa, quasi lugubre, su una base di alienazione industriale, ma la canzone aveva la stessa potente carica emotiva. Anna la Nera era sommersa dalla musica, aveva voglia di saltare e ballare. I ragazzi erano ancora più bravi di quello che si era immaginata. La facevano sentire bene. Guardò curiosa verso la rossa e vide che anche lei era stata presa dal gruppo, o almeno le sembrava di scorgerle negli occhi un bagliore di interesse. Acqua di Cane invece era uscito senza che lei se ne accorgesse. Nessuno fece caso a Drago quando, con indifferenza, premette l'interruttore sopra la scatoletta nera con la punta dello stivale. Le due luci, verde e rossa, ora stavano pulsando all'unisono. Il piacere emotivo, che la rossa aveva provato fino ad allora, divenne voluttà sensuale. Iniziò in modo sfumato, aumentando impercettibilmente il ritmo di musica, diffondendosi gradualmente in tutto il corpo. Una corrente fluida di calore nel ventre la fece sospirare profondamente. Si sprofondò ancora di più nella comoda poltrona. Sentiva vampate calde risalirle le gambe e percorrerle il corpo. Aveva i brividi lungo la spina dorsale. Poteva sentire e vedere la pelle d'oca sulle braccia. Le sue gambe parevano avere vita propria. Non riusciva a tenerle ferme. Le incrociava, le stringeva, le allargava, le stringeva di nuovo, non aveva pace. Si strofinava l'addome con il palmo della mano. Era sconvolta da se stessa e, anche se il suo cervello sembrava rispondere e obbedirle, si rendeva conto che iniziava a perdere il controllo sul suo fisico. A questo pensiero si sentì avvampare in una nuvola di piacere. Cercò con lo sguardo un rifugio, la toilette, ma la stanza era sprovvista di ripari. Strinse i denti, mugolò tra sé confortata dal fatto che la musica avrebbe coperto i suoi gemiti, socchiuse gli occhi per un attimo e in quel momento si sentì travolgere da un orgasmo come un fiume in piena, caldo e irresistibile. Stupefatta e senza respiro, sgranò gli occhi, spinse indietro la poltrona con i piedi cercando un angolo più buio. Doveva sprofondare nello spazio tra i cuscini, mimetizzarsi tra le pieghe della stoffa. Si morse le labbra cercando di riprendere il controllo. Poi, improvvisamente, si sentì indubitabilmente osservata. Era seduta nell'ombra, ma gli occhi di Drago oltrepassavano il vetro, il buio, le penetravano la mente e non riusciva a smettere di essere sempre più pericolosamente vicina a un altro orgasmo. Anna la Nera non si accorgeva di questo dramma silenzioso. Pur essendo fisicamente vicina all'amica, tutti i suoi sensi la informavano che stava piuttosto fluttuando sopra le nuvole. Mentre la musica le scorreva sulla pelle come aria, si sentiva leggera. Tutte le ansie e insoddisfazioni di una vita erano evaporate. Si rendeva conto che in quel momento stava comprendendo, per davvero, per la prima volta, cosa significasse sentirsi al settimo cielo, da qualche parte nelle vicinanze del paradiso. Se chiudeva gli occhi poteva vedere campi bianchi di soffici nuvole a perdita d'occhio. Il cielo che si perdeva fino all'orizzonte era il più limpido cristallo. Il sole brillava alto. Avrebbe voluto iniziare a correre su quella distesa di zucchero filato, prenderlo con le mani e lanciarlo in aria, lasciarsi cadere a peso morto per gustarsi l'impalpabile atterraggio e soprattutto inseguire correndo quel vento fresco di aria incontaminata che le lambiva i capelli. Non si accorgeva neanche del sorriso che le allargava le labbra, deformandole il viso, e che le avrebbe provocato un serio spavento se l'avesse visto in faccia qualcun altro. Non aveva mai sorriso quel sorriso e non aveva mai visto nessuno sano di mente farlo. Non si accorgeva delle lacrime che le piovevano in grembo, né del lieve tremore che la scuoteva. Tutto quello che riusciva a pensare era che non avrebbe mai voluto che finisse.